ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Spesso il dubbio nell'investire ho incontrato. Era il PIL strozzato che ci addoglia. Era l'economia dalla voglia scarsa. Era lo spread troppo elevato. Bene non seppi, fuori del consiglio, che largisce il saggio due di denari. Era l'acuta e avveduta Rosciani, con Meazza, meticoloso e molto oculato. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Cara Deborah, come mi sei romantico stamattina, sono quasi voluto, commossa. Sì, ho voluto cominciare con questo valzer, perché sì, certo. C'è una notizia fiscale. Sai che io sulle notizie fiscali sempre, come dire, mi sciolgo. Quale miglior canzone poteva accompagnarla? D'altronde, dimmi, ti prego, allora. Allora, per i turisti extra UE, cioè non appartenenti all'Unione Europea, Parigi... Già l'attacco è veramente intrigante, sì. Lo so, mi rendo conto. Parigi diventerà più conveniente dal 2021, perché hanno deciso di abbassare la soglia per poter applicare il tax free shopping, cioè il rimborso dell'IVA. Allora, adesso questa soglia Parigi è sopra... va sempre bene una messa. Eh sì, vale anche per lo shopping, verrebbe da dire, perché devi sapere che adesso il tetto è a 154,95 euro, devi spendere almeno quello, ma lo abbasseranno a 100 euro. Peraltro lo riferisce il Messaggero con un po' di preoccupazione, perché giustamente, sentendosi anche in competizione Roma, certo, rispetto a Parigi per i turisti moda, stranieri, certo, per tutte queste cose qua, perché prima o poi torneranno anche i turisti stranieri, ci auguriamo tutti. Ebbene, dice, forse dovremmo intervenire anche noi con qualche misura di attrazione. Sì, noi del invece turista. Abbiamo abbassato la soglia dell'utilizzo del contante. E questo, vabbè, è un altro... Questo va bene. No, va bene anche questo, naturalmente, perché sappiamo che siamo un po' resti ad utilizzare lo strumento di pagamento elettronico, questo perché non vogliamo tracciare molto i nostri movimenti, però alla fine, insomma, ci viene addosso anche questa misura, che nello spirito è buona, ma poi se vai a vedere quello che fa Parigi... vabbè. Allora, non siamo mai contenti. Come la fai la sbagli? Com'è che si dice? Eh sì, a proposito però di acquisti, ti voglio dire, questa sarà una puntata molto interessante. Cosa non farebbero per essere ospiti di Due di Denari? Guarda, verremo un po' meno alla nostra abituale regola, per cui noi abbiamo sempre ospiti di valore mondiale. Li avremo anche oggi, ma non tutti. Perché per questa puntata abbiamo dovuto abbassare il livello. Per questa puntata di Due di Denari facciamo uno strappo alla regola. Ho invitato Alessandro Milan. Cosa ti è venuto in mente? Ti devi vendicare tutte le volte che ti prendono in giro alle 10:30, quando io devo sopportare tutte le vostre schermaglie prima di andare in onda con la borsa? Ma così, sono ragazzi che celiano e anche noi celiamo. Buongiorno Alessandro, benvenuto a Due di Denari. Sei grazie, contento? Grazie, molto. Non ospite mondiale, ma europeo, visto che noi abbiamo iniziato una trionfale passerella in Europa League ieri, noi del Milan, e voi non si sa dell'Inter. Ecco, adesso come al solito mi devo sentire esclusa dalle conversazioni qua, perché introducono la materia calcistica. No, invece io ho invitato Alessandro perché Alessandro, qualcuno che lo segue sui social, e sono parecchie migliaia, forse lo sa, è stato purtroppo incappato in una truffa che consiste nel furto di identità. Non so se è capitato anche a qualche altro ascoltatore, sostanzialmente si è visto recapitare la richiesta di un pagamento per un'utenza che non lui, ma purtroppo Francesca Del Rosso, cioè la sua moglie prematuramente scomparsa anni fa, avrebbe attivato nei mesi scorsi, ovviamente non ha attivato alcunché, e però gli è arrivato una bolletta, esatto, da pagare. Ho riassunto bene, Alessandro, più o meno è questa la situazione. Assolutamente, circa 700 euro da pagare con una lettera di un avvocato, quindi pagare assolutamente prima della causa, l'ultima occasione per pagare per un'utenza in un paesino in provincia di Cuneo che io non avevo mai sentito nominare. E poi, come giustamente detto tu, il contratto è stato attivato, sarebbe stato attivato da mia moglie l'anno scorso, solo che mia moglie è mancata 4 anni fa. E quindi è facilmente dimostrabile tutto questo. Il problema è che quando abbiamo con l'avvocato scritto alla società che ci chiede i soldi, ci hanno mandato il contratto dicendo no, guardi, è tutto a posto, e ci hanno mandato la carta d'identità di mia moglie con gli stessi dati, il codice fiscale, ma al posto della foto di mia moglie c'era la foto di un'altra donna. E la firma era anche palesemente Francesca Del Rosso, ma era palesemente diversa dal modo in cui firmava mia moglie. Allora, il punto è il furto di identità. Insomma, vi ha danneggiati in qualche maniera? Anche voi siete stati malcapitati, protagonisti di avventure del genere, simili a quella che è capitata al nostro Alessandro Milan? Chiamateci all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666, inviateci i vostri WhatsApp audio. Io farei questa cosa, Mauro, visto che già come dire, la puntata è diventata molto effervescente ed interessante con questo argomento, e visto che non avevamo moltissime notizie, per oggi eviterei di fare il giornale Radio del Risparmio, andrei subito all'argomento di stamattina, perché abbiamo un importante amico di un'importante associazione dei consumatori, anzi di una lobby indipendente appunto che tutela i consumatori. Abbiamo la Polizia di Stato e quindi direi di approfondire molto bene questo argomento. Sì, anche che per pensi? Bilanciare un po' la presenza di Alessandro, abbiamo due dovuto... contro uno per forza. Assolutamente. Abbiamo dovuto ricorrere a questi mezzucci, ma va bene, oggi è un giorno in cui le cose così cambiano, le tradizioni vengono interrotte. E allora, Deborah, facciamo come vuoi tu, andiamo subito al tema della giornata. Tra l'altro, quando parliamo di attivazioni di bollette nostro malgrado, in realtà queste truffe si consumano diversamente da qualche anno a questa parte, perché ci capita spesso di ricevere o la telefonata o la visita addirittura fisica di un operatore di una grande azienda o anche più piccola del gas e dell'energia, che insomma si presentano in qualche maniera, riescono a far firmare a molte persone dei contratti loro malgrado. Quindi invece la vicenda che è capitata appunto ad Alessandro è del tutto diversa. Saluto anche l'altro ospite che abbiamo interpellato questa mattina, l'amico Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, la lobby indipendente dei consumatori. Luigi, ben trovato e grazie. Buongiorno a tutti. Allora, Mauro, da che partiamo? Rifacciamo ribadire ad Alessandro la vicenda bella raccontata poco fa, ma... Volevo chiedere appunto all'avvocato che cosa poi ti ha consigliato Alessandro, cioè qual è stato il comportamento indicato dall'avvocato? Subito di andare a fare una denuncia per furto d'identità, anche perché con la denuncia puoi subito dimostrare, insomma, con il certificato di morte di mia moglie, che quei soldi che mi chiedono, i 700 euro, non sono dovuti, perché chiaramente mia moglie non può avere fisicamente allacciato nessun tipo di utenza. Quindi fare subito, anche perché mi ha detto l'avvocato, speriamo si siano fermati qui nel momento in cui hanno una carta d'identità intestata a tua moglie con la foto di un'altra persona, potrebbero anche avere fatto altre cose. E infatti abbiamo sentito raccontare nei corridoi della radio, Deborah, anche episodi di persone che si sono sentite attribuire l'acquisto di macchine sportive particolarmente costose e hanno dovuto dimostrare di non averlo fatto. Con la complicità peraltro dei concessionari, quindi ad aggravare anche la situazione. Però allora, Deborah non l'abbia fatto lei con i Luigi, dati di no, Mauro. Adesso, ma infatti... No. No, Deborah potrebbe andare a comprare qualche brillantino, qualche diamante, cose così. Sono insomma più orientata su un qualcosa di molto più. Senti, Luigi, che ne pensi della vicenda che è capitata ad Alessandro? Insomma, il tema del furto d'identità, ormai le associazioni dei consumatori devono intervenire pressoché quotidianamente. Beh, diciamo che il fenomeno è diventato anche più complesso, perché adesso abbiamo, oltre a tradizionale, abbiamo l'identità digitale, no? E visto che le organizzazioni criminali sono sempre più evolute, pensa che fino a qualche tempo fa fare dei reati informatici e sottrarre dei dati di questa natura era molto complesso e lo potevano fare prevalentemente chi disponeva di grandi risorse. Oggi abbiamo l'intelligenza artificiale e quindi assistiamo quotidianamente a guerre tra intelligenza artificiale benevola e intelligenza artificiale malevola. Quando sentiamo di grandi sottrazioni di dati, da parte di ignoti nei confronti di grandi operatori telefonici, energetici, la stessa Inps che abbiamo assistito anche negli ultimi tempi è stata oggetto di questa natura, vuol dire che c'è in atto una guerra tra parti che sono finalizzate all'acquisizione di questi dati perché sono facilmente monetizzabili. Significa che nel dark web, nel web profondissimo dove si fanno scambi illegali, c'è qualcuno che è disposto ad acquistare questi dati e a pagarli anche a caro prezzo. Per fare cosa? Per fare purtroppo quello che è successo anche a Alessandro. Quali sono peraltro i casi più diffusi? Perché in questo caso ad Alessandro è capitato appunto che venisse attivata questa utenza a nome appunto di Francesca, però chiaramente la tipologia è estremamente ampia. Luigi, quali sono, come dire, le segnalazioni più diffuse che arrivano all'Associazione dei Consumatori? Guarda, nell'ultimo periodo certamente stanno incrementando i fenomeni di sottrazione di contratti, soprattutto finalizzato al credito al consumo. Inconsapevolmente nessuno può venire a sapere che qualcuno ha sottoscritto un finanziamento per mio conto, fin quando io un giorno non andrò a fare un altro finanziamento, lo farò io personalmente e risulterò iscritto alla CRIF. Oppure fin quando qualcuno... Una società di recupero crediti viene a bussare alla tua porta perché non hai onorato le rate del finanziamento. Ecco, ma infatti questo mi preoccupava, Luigi. Beh, ce lo chiedevamo anche con Deborah prima di cominciare la trasmissione. È vero, Alessandro può facilmente dimostrare che non ha nulla a che vedere con questo tipo di utenza, con questo tipo di contratto. Ma se poi uno si ritrova iscritto nel registro dei cattivi pagatori e non c'entra nulla, questo è già più una scocciatura. Mi immagino che si debbano poi fare degli ulteriori passaggi per spiegare che appunto il cattivo pagatore non è lui ma è qualcun altro. Ma come in tutti i casi, ha fatto benissimo Alessandro a dirlo, l'elemento fondamentale è esporre immediatamente denuncia. Come quando perdiamo i documenti del portafoglio o la carta di credito o il banco, ma che cosa facciamo? Andiamo subito, e questo lo dobbiamo fare anche quando ci rendiamo conto che abbiamo perso dei nostri dati anche in formato digitale. Perché? Perché poi da lì inizia la trafila di dover, oltre a sporgere denuncia, contestualmente dobbiamo andare a chiedere copie eventualmente dei contratti che sono stati siglati, eventualmente far fare perizie grafologiche, disconoscere eventuali ulteriori contratti collegati, e è sempre un problema. Quindi la cosa fondamentale è che noi dobbiamo renderci conto che, così come accade che al momento della perdita del portafoglio, ma visto che il portafoglio è un elemento fisico, no? Non lo abbiamo in tasca, lo sentiamo, a un certo punto non lo sentiamo più, entriamo nel panico e pensiamo immediatamente di andare a denunciare perché c'era la carta di identità, il codice fiscale. Dobbiamo avere la stessa percezione nel momento in cui ci muoviamo online, perché online, purtroppo, ahimè, non avendo la fisicità, non ci rendiamo conto che anche mettere un post oppure scrivere la nostra bellissima data di compleanno sui social network per farci fare gli auguri significa che, unita alla facile individuazione del luogo in cui siamo nati e alcuni altri semplici elementi, vuol dire che abbiamo già dato a chiunque il nostro codice fiscale. Sappiamo che oggi è facilissimo, attraverso alcuni elementi di base come il codice fiscale e altri dati, attivare contratti a distanza. Volevo chiedere ad Alessandro, ma Alessandro, tu ritieni di essere stato in qualche modo imprudente nella gestione dei dati? Lo dicevo prima, tu sei anche molto seguito sui vari social network, insomma su Twitter, Facebook eccetera, quindi hai una dimensione pubblica, può darsi che tu non sia stato prudente. Ti senti non essere stato prudente, o invece proprio che qualcuno, come ci spiegava Luigi Gabriele, nel dark web, insomma nella criminalità digitale, si è approfittato di mettendo insieme più cose diverse? Sicuramente prudentissimo non lo sarò stato. Certamente la mia data di nascita l'ho messa anche nei profili e quindi si può recuperare, come anche Francesca. La cosa che effettivamente in questo caso c'è di più è che è innegabile che ci sia stato anche, come dire, un po' un fastidio emotivo, ecco, chiamiamolo così, perché un conto è rubare l'identità a me e un conto è rubare l'identità appropriandosi dell'identità di Francesca, che tra l'altro è mancata 4 anni fa, e quindi aggiunge anche un po' veramente un fastidio, che però mi tengo, per carità, non c'entra nulla dal punto di vista pubblico, e che però però ma è del tutto comprensibile, sì, perché in questo caso non hanno neanche rubato i dati a me, quindi non saprei, ma hanno proprio preso i dati, i dati di Francesco. Quando sarebbero state attivate queste utenze, peraltro, l'anno quest'anno? Scorso, ah, ecco, settembre. L'anno scorso. E ti chiedono, appunto, non mi ricordo se l'hai detto all'inizio, 700 euro scarsi, ma in questo la società che mi chiede è a sua volta vittima, evidentemente, esatto, perché loro mi hanno mandato il contratto e è un contratto firmato a Francesca Del Rosso, certo attivato telefonicamente e attraverso una carta d'identità fatta in questo paesino di Cuneo, con tutta la carta d'identità di mia moglie, con una foto che obiettivamente, se uno la vede bene, sembra anche attaccata in maniera posticcia di un'altra donna sopra la foto che c'era prima. È che il problema è che in questo periodo le società si strappano i clienti in una modalità veramente esasperata e quindi non fanno tanto caso alla qualità della documentazione prodotta quando si attivano utenze nuove. Ti faccio sentire, Alessandro, così come lo facciamo sentire anche a Luigi Gabriele, la testimonianza di Marco da Roma. Marco, benvenuto. Salve, buongiorno a tutti voi. Anch'io sono capitato in questa avventura e per ben tre volte mi sono stati recapitati blocchetti di pagherò della posta con acquisti che non ho mai fatto, tra Viterbo, Cremona, Piacenza e per 700, 800, 900 euro. Ma come venivano fatti questi acquisti? Con la sua carta di credito? Sono stati fatti in pratica con la mia carta d'identità, sì, con la mia busta paga e con il codice fiscale, che in pratica quindi erano dei prestiti che le venivano fatti, cioè per acquisti, diciamo, a rate. Sono stati, ho fatto degli acquisti presso note diciamo attivando il credito al consumo, attivando, esatto, quindi, che ne so, per esempio tante volte si compra la lavatrice, adesso è così è andata sicuramente. Okay. No, non so, non vorrei incolpare nessuno, ma c'è un po' di sviste quando si fanno queste cose. Ma lei è riuscito a dimostrare che, insomma, non aveva acquistato niente? Che in quei posti non sono mai stato, perché non c'ho collegamenti. E poi in questa casa, diciamo, di prestiti, questa società di credito al consumo, sì, sono riuscito, portando le denunce dei carabinieri, a vedere un attimo il personaggio, che in pratica non ero io, sì, cosa che non possono fare per la privacy, però l'impiegata dice è messa un po' in compassione, certo, in pratica. Benedetta privacy. Grazie Marco, grazie. Ecco, io volevo chiedere a Luigi Gabriele, mi ha colpito tantissimo il discorso la busta paga, com'è possibile disporre della busta paga di qualcun altro? Davvero il web ci riserva delle sorprese che non avremmo mai detto. Data branch. Guarda, breach, per carità del cielo, perché c'è un ascoltatore che ci sta, tormentando da giorni, sgridando perché pronunciamo male, Luigi. Data breach. Data breach. Lo dovremmo utilizzare in italiano, ma non è possibile in alcune circostanze. Sì, è facile, perché quando assistiamo di attacchi informatici, ad esempio alle grandi piattaforme, alle grandi servizi di utilità, sono finalizzati proprio per ottenere questo genere di dati, ma è ancora più semplice. Basta entrare in possesso della nostra posta elettronica, recuperare la password e poi, accedendo alla nostra posta elettronica, si possono attivare un'attività di servizi. Unitamente al nostro numero di telefono ormai si possono attivare servizi anche nei confronti della pubblica amministrazione, come potrebbero essere il sistema pubblico di identità digitale. Quindi diventa molto facile magari che qualcuno, per conto nostro, ma non siamo noi, chieda ad esempio all'Istituto per la Previdenza di avere copia di dati sensibili, oppure lo possa chiedere a chiunque altro. Quindi ci si impossessa non solo dell'identità, ma anche dell'operatività della persona. Oggi ovviamente con internet è ancora più facile. Allora, abbiamo esposto il caso di Alessandro, che però appunto ha un impegno, quindi lo ringraziamo perché si è trattenuto con noi anche un po' oltre rispetto all'orario che aveva previsto. Posso, in realtà, guarda, prego, sì, ti avevo, Deborah, suggerito di salutarlo perché so che è impegnato, ma è arrivato un messaggio interessante di un ascoltatore, perché lui effettivamente dice: nel caso di Milan, ma non è anche un po' colpa della società che ha attivato l'utenza, perché non hanno verificato che la persona con quel codice fiscale... Eh beh, sì. Quindi altro che a dire che devono essere considerate loro le vittime, colpa, i truffati. No, colpa non lo so, non mi permetto. Negligenza, cioè sicuramente. Sicuramente, non lo so se questo cambi dal punto di vista della legge, cioè il furto di identità di una persona deceduta rispetto a una persona. Forse un piccolo controllo incrociato, un database nel quale uno inserisce il codice fiscale che è proprio legato a una persona e viene fuori che questa persona non è più in vita, sarebbe semplice, no? Per capire... Sì, bene. Sai Alessandro, c'è anche molta facilità, perché non nel caso naturalmente dei malintenzionati, a tutti piace, ed è diventato anche necessario in questi mesi di lockdown, di clausura forzata, così avere anche la comodità di attivare qualcosa senza doversi spostare fisicamente. Quindi, però capisco da tutto quello che mi state dicendo che invece può essere qualcosa che poi riserva delle pessime sorprese. Grazie Alessandro. Grazie a voi. So che devi andare a fare il comico stasera con Leonardo da qualche parte. Sono stato promosso da giornalista a comico. Bene. Accidenti, che carriera. Guarda, ti invidiamo abbastanza. Infatti. Beh, allora in bocca al lupo. Non è detto che anche per noi non finisca così prima o poi. Appunto, guarda, stai attento. Bobo. Grazie Alessandro. A voi. Che facciamo? Sì. Guarda, mi toglierei... Vediamo che cosa stanno facendo anche i mercati. Anche perché abbiamo la polizia tra poco, quindi sarei anche molto rigida nel protocollo quotidiano della trasmissione. Allora, mettiamoci un attimo in ordine. Per favore, Deborah, un aggiornamento rapido sui mercati finanziari, ovvero le borse. Ma allora, visto che è la giornata delle tre streghe, io la fattura me la posso far fare da Amelia, la strega che ama... Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Due di denari. Dimmi quanti soldi vuoi, quanti soldi vuoi, quanti soldi vuoi per lasciarmi... Ad Alessandro ne chiedono quasi 700 euro, insomma, questo operatore che ha attivato... Sì, scusatemi, sì, lo so che c'erano i WhatsApp, mi sono scordata, Mauro. Cioè, Marco, ho la memoria del pesce rosso. Resetto, mandiamo in onda i WhatsApp di questa mattina. No, ma Deborah, tu puoi parlare, ci mancherebbe altro. Anzi, devo dire che effettivamente saremmo anche retribuiti per parlare. Quindi, ah sì, dici che quindi ero autorizzata, ma grazie. Se non parliamo, effettivamente si crea un problema. Sentiamo. Però è vero che gli ascoltatori ci hanno lasciato dei messaggi. Anch'io sono stata vittima di un furto di identità, cioè praticamente sono stata accusata di aver causato, cioè che la mia macchina intestata a me ha causato un incidente con dei feriti a Roma quando io vivo ed ero all'epoca sempre a Verona, Bussolengo, dove abito. E non è stato assolutamente facile, subito sembrava che fosse appunto così una cosa semplice e in realtà poi ho dovuto proprio chiamare qualcuno che testimoniasse, che mi conosceva, che mi abita vicino, che conosceva che io in quel giorno lì non ero a Roma e quindi non potevo aver causato un incidente. Ma se non avessi trovato questa persona che mi abita vicino, che mi conosce e che mi ha vista in quel periodo, la cosa si sarebbe veramente complicata e... Praticamente la compagnia assicuratrice mi ha un po' voltato le spalle, diciamo, perché sì, mi ha dato qualche consiglio, ma appunto, come dicevo, se non avessi trovato questi avrei avuto dei problemi abbastanza seri. Ecco, volevo solo portare la mia esperienza e niente, vi saluto, buona giornata, vi seguo spesso, ciao ciao. Mi chiedo una cosa, visto che probabilmente è un'utenza legata a un'abitazione, ma spedire una pattuglia dei carabinieri a verificare chi abita lì, oppure bisogna aspettare il solito iter giudiziario? Allora, è una domanda, questo è il secondo ascoltatore, che noi possiamo anche girare, se vuoi, proprio alla Polizia di Stato, perché abbiamo... Funzionario di pubblica sicurezza, certo. Abbiamo in collegamento, e la ringraziamo, Magica Palmisano, vicequestore aggiunto della Questura di Milano, che è in forza all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Adesso, e grazie, insomma, per l'invito. L'ascoltatore chiede di cominciare a dispiegare le vostre pattuglie per andare effettivamente a verificare che insomma le case siano abitate dagli effettivi abitanti che chiedono l'attivazione di utenza. Effettivamente sarebbe uno sforzo enorme, diciamo che insomma la pubblica sicurezza può intervenire diversamente a tutela dei cittadini e dei consumatori contro queste truffe, dottoressa Palmisano. Sì, beh, sicuramente sarebbe un notevole sforzo, ma lo sforzo, devo dire, che noi come Polizia di Stato, insomma, cerchiamo ogni giorno di indirizzare, soprattutto quello per individuare le persone che realizzano quelli che noi chiamiamo come furti di identità, che però il codice penale qualifica proprio come sostituzione di persona. Per cui quello che noi consigliamo sempre, al di là di tutti gli aspetti economici e civilistici che ovviamente toccano ogni cittadino, è comunque quello sempre di presentare una denuncia contro ignoti per sostituzione di persona. Sulla base di quello possiamo attivarci per cercare di individuare coloro che utilizzano abusivamente i dati di ignari cittadini. Ma poi la possibilità che, insomma, questa denuncia contro ignoti si tramuti in qualche modo in una denuncia contro noti, cioè che questi siano perseguibili, perché da quanto abbiamo detto nella parte iniziale della trasmissione, insomma, mi sembra di capire che col web, con internet, è diventato talmente facile per i malintenzionati poter arrivare ai nostri dati personali che sembra un pochino che voi abbiate un compito improbo. Beh, questo è sicuramente vero, però è anche vero che noi cerchiamo anche come Ufficio Prevenzione Generale di agire anche dal punto di vista della prevenzione, e in questo senso è necessario che comunque i cittadini abbiano consapevolezza che ci sono alcuni piccoli trucchi che in qualche modo possono prevenire ad arrivare in situazioni di questo tipo. Non dimentichiamo infatti che molto spesso per contrarre ad esempio crediti al consumo, per fare giusto un esempio, è comunque molto spesso necessario presentare una fotocopia dei documenti, e quindi ecco quello che ci sentiamo di consigliare è di agire dal punto di vista preventivo, quindi evitare di dover o comunque limitarsi per quanto possibile a dover mandare fotocopie dei propri documenti di identità, del proprio passaporto, se non si ha l'assoluta certezza della serietà del nostro interlocutore. Capita ad esempio molto spesso su internet di trovare delle offerte di lavoro piuttosto strampalate che promettono ovviamente delle cose abbastanza inattuali e che chiedono, pronto per poter entrare in questa fantomatica lista, di inviare documenti di identità, fotocopie di documenti di identità. Ecco, noi questo consigliamo ovviamente di evitarlo in ogni caso, di cedere copie dei propri documenti soltanto se necessario, soltanto se l'interlocutore è una persona che possiamo considerare un interlocutore serio, e in ogni caso, ad esempio, uno dei piccoli in qualche modo trucchi che consentono di evitare poi l'uso abusivo di questo documento e inserire con una penna sulla fotocopia del documento ad uso esclusivo di, e quindi in questo modo una fotocopia di questo tipo non potrà essere utilizzata ad esempio poi per contrarre un credito al consumo. Quindi siglare in qualche modo, sì, rendere unica quella fotocopia, certo, così che chi volesse poi sfruttarla per attivare altri crediti al consumo a suo vantaggio non potrebbe farlo, o comunque avrebbe delle grosse difficoltà, dovrebbe modificare ulteriormente il documento, eccetera eccetera. Questo è un corretto po' il consiglio che date. Dottoressa Palmisano, senza entrare nel merito del caso che è capitato al nostro collega a cui è stata attivata un'utenza elettrica appunto in un paese molto lontano da Milano a nome della moglie scomparsa nel 2016, quindi un caso veramente anche sgradevole da molteplici punti di vista, quali sono le altre situazioni particolarmente diffuse che arrivano negli uffici appunto della Polizia di Stato? Quali sono i casi di furto d'identità con i quali più spesso vi confrontate, scindere dal mondo web che è anche un mondo a parte per il quale poi c'è tutta l'alveo della competenza appunto della polizia postale, ecco, ma per quello che riguarda proprio anche prima l'ascoltatore ci ha raccontato dell'utilizzo della busta paga in negozi di elettronica di largo consumo, immagino, e dove è facile appunto che questi documenti vengano chiesti per attivare un contratto di credito al consumo, ecco, quale altra casistica ci può raccontare? Beh, sicuramente quella delle utenze d'attivazione, delle utenze telefoniche, ma anche delle utenze ad esempio elettriche, è una delle più diffuse che ci troviamo molto spesso ad affrontare perché lo valutiamo insomma delle denunce che presentano i cittadini. Un altro caso estremamente diffuso è appunto quello dell'attivazione comunque di contratti di finanziamento, ad esempio per acquisti di vario genere, per cui in realtà l'ignaro cittadino si ritrova debitore per l'acquisto di autovettura o anche molto spesso di elettrodomestici pur ovviamente non conoscendo perfettamente quello che come dire, di che cosa si tratta e qual è l'acquisto. Ovviamente noi quello che insomma ci sentiamo di sottolineare in questo caso è che purtroppo le vittime di queste truffe sono due soggetti diversi, cioè da una parte certamente il cittadino che in modo assolutamente ignaro si vede ovviamente utilizzare i propri dati personali per acquisti a lui sconosciuti, ma dall'altra parte una delle vittime è anche la società finanziaria, ad esempio, che abbia concesso un prestito personale ad un truffatore. Quindi in questo senso agire dal punto di vista preventivo, magari anche amplificando un po' i controlli e i passaggi nella concessione di finanziamenti, nella concessione di crediti, può sicuramente cercare di ridurre al minimo un fenomeno di questo tipo. Io ho una domanda per entrambi i nostri ospiti collegati, cioè sia per Magica Palmisano che per Luigi Gabriele. Questo tipo di reati a me sembra in aumento esponenziale, cioè non solo nella fase appunto della quarantena, della clausura da Covid, ma anche già da prima ci era capitato di parlarne per quanto riguarda specialmente le truffe finanziarie, ma anche questo meccanismo della furto d'identità. Non so se faccio una sgarberia alla dottoressa Palmisano. Luigi, ti risulta che questo tipo di truffe stia aumentando? Hai la percezione che stia aumentando? No, Mauro, è assolutamente così, perché cioè, quando qualcuno utilizza l'identità di un'altra persona per svolgere un'attività a cui vogliamo addossare le conseguenze, ad esempio il finanziamento al consumo, in questo caso non interessa chi è la vittima e quindi dove, dice, alla romana dove coglio coglio. E poi invece cioè, quando qualcuno utilizza l'identità di un'altra persona per compiere azioni in nome e per conto di una persona specifica, come ad esempio impressionare qualcuno sui social network o attribuirgli dichiarazioni. Questo è dovuto soprattutto al proliferare di dati, cui siamo gli unici responsabili noi, che stiamo immettendo sui social network. I social network che cosa fanno? Raccolgono questa mole di dati straordinaria, come quelli che noi mettiamo quando facciamo quel giochino di vedere come saremo fra 30 anni, no? Che mettiamo la nostra foto attuale e poi come saremo. No, siamo contenti perché diciamo, ah, guarda come mi manterrò bene. Nel frattempo abbiamo dato la nostra foto in giro. Dati biometrici che sono importantissimi, con la definizione persino della nostra pupilla, della disposizione degli occhi e di tutto il resto, e questo può avere delle ripercussioni straordinarie nei confronti di coloro che vogliono truffare e quindi andare a prendere online la nostra identità. Dottoressa Palmisano, lei concorda con questo avvertimento di Luigi Gabriele? Sì, sicuramente. Tenga conto che se facciamo riferimento a quelli che sono dati strettamente personali o all'utilizzo di fotografie, ovviamente noi ravvisiamo anche la possibilità che vengano commesse altre tipologie di reati al di là della sostituzione di persona, ad esempio insomma sicuramente fingersi di essere quella determinata persona con quella determinata foto, ma per realizzare addirittura dei reati ancora più gravi. Dobbiamo però distinguere da quello che invece è il caso diciamo in cui il danno è strettamente, possiamo dire, economico. Ora mi rendo assolutamente conto che l'ignaro cittadino che si vede recapitare, come dire, un obbligo di pagamento piuttosto che una fattura che assolutamente disconosce, tanto più nel caso del vostro collega che è assolutamente spiacevole, è una cosa sicuramente che crea un danno al cittadino. Devo dire però che in questi casi non è estremamente complesso riuscire a dimostrare che non si è la persona che ha effettivamente stipulato quel contratto. Per questo che noi ad esempio consigliamo anche, prima di venire a fare denuncia alla Polizia di Stato, di chiedere alla società che ci sta chiedendo appunto questo pagamento una copia del contratto. Sì. Molto spesso accade che all'interno di questi contratti ci sono dei dati contrastanti, magari il nome, il cognome, la data di nascita risulta corretta, ma il luogo di nascita no. Ecco, spesso anche solo queste contraddizioni servono ad avvalorare insomma la posizione del cittadino ignaro e a riuscire in maniera a volte agevole, a volte un po' meno agevole, ma a risolvere il problema perlomeno dal punto di vista economico. Allora, bene. grazie a Magica Palmisano, vicequestore aggiunto della Questura di Milano, che è in forza all'ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico. Grazie di averci aiutato questa mattina, dottoressa. Grazie a voi. Buon lavoro. E grazie a Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Grazie, buona Luigi. Giornata. Un attimo, Deborah, perché c'è il traffico. due di denari. Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti, l'altra per sparire. Sto ricevendo anche un bell'insulto tra gli sms, perché prima, quando ho fatto l'aggiornamento di borsa, non ho detto esattamente quanto facesse Piazza Affari. E quanto fa Piazza Affari? Fa più 0,06%, ma adesso devo ribadire di nuovo tutto nel giornale radio delle 12, quindi chiedo un po' di pazienza agli ascoltatori. Vabbè, più 0,06. Ma è quasi mezzogiorno. Che vita difficile, guarda. Sì. È quasi mezzogiorno. E c'ho anche un po' fame, devo esatto. dirti. È quasi ora di pranzo. Allora, io oggi ho fatto in modo che si parlasse in questa ultima parte della trasmissione di pasto, o meglio, di buoni pasto. E ho richiamato Stefano Sirocchi, che è commercialista, esperto del Sole 24 Ore, e che in diverse occasioni, non è un buono pastologo ovviamente, si occupa di molte altre cose, ma in diverse occasioni si è occupato e si occupa appunto della disciplina fiscale e non solo dei buoni pasto. Buongiorno, bentornato Due di Denari. Buongiorno a tutti. Ma insomma, malgrado, insomma, è diventato uno dei massimi esperti di questo tema. Sarà a quanto pare più semplice utilizzare i buoni pasto elettronici, perché troveremo adesso nei negozi autorizzati, negli esercizi commerciali, soprattutto in bar e ristoranti, immagino, il POS unico utilizzabile per tutti i buoni sostitutivi del servizio mensa. Di che cosa stiamo parlando, dottor Sirocchi? Qual è questa novità? Sì, la novità è proprio questa, che gli esercenti convenzionati potranno avere un unico dispositivo compatibile con tutti i buoni pasto elettronici. Quindi un unico POS potrà accettare tutti i buoni pasto dei diversi circuiti. Quindi, diciamo, sostanzialmente chi già oggi utilizza questi buoni sa che andando nei vari supermercati e nei bar può trovare più dispositivi, 4-5 macchinette a volte addirittura, ciascuno per ogni società di emissione di questi buoni pasto. E invece con le novità ovviamente avremo, direi, almeno due vantaggi. Il primo, che riguarda sostanzialmente il risparmio delle commissioni degli esercenti, che finora ovviamente, dovendo avere più dispositivi, hanno visto le loro commissioni moltiplicarsi. E poi un secondo vantaggio è, diciamo, per gli utenti, questo direi che è un vantaggio indiretto, in quanto c'è la possibilità che molti degli esercenti che finora non hanno accettato questi buoni elettronici, o comunque li accettavano ma soltanto nella forma analogica, diciamo il classico buono cartaceo, decidano adesso, proprio perché i costi sono ridotti, di fare il salto al digitale. Quindi mi sembrano due buoni punti. Allora, in realtà io pensavo che oramai i buoni cartacei, per così dire, fossero scomparsi, perché non è da un giorno che disponiamo dei buoni elettronici, ma invece, dottor Sirocchi, non è così. Non è così, perché sono già alcuni anni effettivamente che sono stati introdotti. Inizialmente non c'era alcuna convenienza dal punto di vista fiscale a scegliere i ticket elettronici rispetto a quelli cartacei. Poi già sono 5 anni, è stata fatta una differenziazione sulle soglie di esenzione alla tassabilità di questi strumenti, e quindi, diciamo, ad oggi, in particolare dal 1 gennaio di quest'anno, addirittura il buono pasto elettronico ha un'esenzione giornaliera di 8 euro contro i 4 euro di quelli cartacei, quindi sostanzialmente è il doppio, un'esenzione giornaliera che è doppia di quella digitale rispetto al cartaceo. Questo ovviamente però riguarda il datore rispetto all'utilizzatore, il datore di lavoro. Allora, diciamo così, che due cose. La prima è che questi valori, che sembrano piccolo importo, in realtà poi vanno moltiplicati per tutti i giorni lavorati, quindi un mese ipotizziamo una ventina, e quindi nel caso dei digitali sono 160 euro. La metà, abbiamo detto, per i cartacei. La seconda è che, in deroga al principio di omnicomprensività dei redditi percepiti dai dipendenti, questi titoli, questi documenti di legittimazione non sono tassabili. Viceversa, se il datore di lavoro disponesse di una indennità in denaro di vario importo, quell'importo lì sarebbe pienamente tassabile in capo al dipendente, quindi un bel risparmio di tasse per il dipendente, ma direi anche per il datore di lavoro, perché non ci dimentichiamo che una parte dei contributi, anzi la gran parte dei contributi, sono a carico del datore di lavoro. Sono molto diffusi i buoni pasto elettronici. A me è capitato di vedere qualche amica appunto che ha questa tesserina che è simile al bancomat o a una carta di credito. È una, come dire, modalità molto diffusa per consumare i pasti. In questo momento le aziende utilizzano volentieri questo strumento, chiamiamolo così, Siroc. Insomma, qual è un po' la percezione sul servizio che i professionisti hanno? Allora, indubbiamente c'è una transizione dal cartaceo al digitale. Fino, abbiamo detto, pochi anni fa esisteva solo il cartaceo o quasi esclusivamente il cartaceo. È chiaro che c'è interesse da parte un po' di tutti, ma in primis dello Stato, a agevolare questo passaggio, perché naturalmente si possono evitare anche una serie di problematiche legate al cattivo uso di questi strumenti, che possono potenzialmente diventare come carta moneta, soprattutto ovviamente, anzi direi quasi esclusivamente per i cartacei. Quindi diciamo una maggiore sicurezza di un utilizzo corretto è interesse dello Stato, ma è anche interesse sicuramente delle società di emissione, perché possono gestire tutto il processo in modo più snello ed efficace, e quindi diciamo ma tutto sommato anche per le imprese è una gestione più veloce. È chiaro che gli utilizzatori, proprio per quanto ci dicevamo, gli utilizzatori trovando più difficoltà nell'utilizzo dei ticket elettronici potrebbero teoricamente preferire quelli cartacei, se non fosse che appunto c'è una normativa fiscale che comunque li penalizza, che è decisamente più generosa per gli elettronici. Ma mi metto nei panni dell'esercente che ha più macchinette lì vicino alla cassa, ci sono un po' queste fioriture di vari terminali. Cosa deve fare adesso? Cosa può fare adesso? C'è una rottamazione della macchinetta. Restituisce tutti questi terminali. Restituisco 5, me ne date indietro una. Allora, qui ci sono due questioni secondo me importanti. Uno, capire bene che cosa sta succedendo. Cioè, il punto di partenza è che al di là dell'aspetto normativo c'è quello pratico. E quello pratico, è chiaro che andiamo verso una standardizzazione, perché se un'unica macchinetta hardware e con un software dentro deve poter comunicare e leggere tutti i buoni pasto dei diversi circuiti, naturalmente dovrà essere in grado di averci dei software all'interno che appunto lo permettono. Quindi diciamo che la semplificazione innanzitutto è tecnologica. Questo è utile anche per capire l'altro passaggio, cioè cosa prevede esattamente la norma che ha introdotto questa modifica. Allora, l'articolo 40 bis, che è esattamente l'articolo che ha disposto questa novità in sede di conversione del decreto semplificazioni, sostanzialmente si è limitata soltanto al risultato finale, cioè si è detto si vuole che all'esercente sia garantito un unico POS. Certo. Leggendo nella relazione illustrativa viene anche spiegato come dovrà avvenire questo passaggio, e dovrà avvenire all'interno del decreto che regolamenta già oggi la materia del. Quindi dovranno intervenire con un nuovo decreto attuativo. Ecco, e non abbiamo il tempo di raccontarlo. Bene. Lo so che vi stuzzica Accidenti. Tanto la materia, però come sentite dalla sigla, la trasmissione sta finendo. Non abbiamo neanche fatto in tempo a parlare per bene delle commissioni assurde applicate ai commercianti, come denuncia un ascoltatore. Nota dolente, ma adesso hanno anche l'incentivo fiscale. Stefano Sirocchi, esperto del Sole 24 Ore, si tenga a disposizione. Non Intanto ci passi un buon fine settimana. grazie mille. A presto, Stefano, grazie. Senti, buon fine settimana, lunedì. Anche a te.